La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 31 di marzo, San Beniamino, auguri a chi si chiama così, e vi ricordo al 16:29 43 secondi, per fortuna oggi cominciamo in tempo, l'indirizzo versione di Oscar, @radio24.it per chiedere interventi, opinioni, proporvi con le vostre storie. E invece per intervenire oggi vi dirò subito di che cosa parliamo: 800 24 00 24, il solito numero di telefono che conoscete bene, e 349 238 6666 per i vostri sms. La trasmissione di oggi, io di solito mi occupo oramai pochissimo di politica, partiti eccetera eccetera, però alcune sms e alcuni messaggi ricevuti in questi giorni mi hanno fatto fare eccezione oggi. Quindi, se voi siete elettori, quadri, militanti, dirigenti del PD, o se avete votato PD o pensate che potreste votare PD, innanzitutto sono le vostre opinioni quelle che chiediamo oggi. Naturalmente le chiediamo a tutti, anche se non è del PD o pensa che il PD non sarà mai il suo partito e comunque la pensi sull'attuale Presidente del Consiglio, perché la trasmissione di oggi è dedicata alle vicende delicate, effettivamente, che si stanno riproducendo sul territorio a una velocità molto significativa all'interno del PD e che trovate sulle cronache tutti i giorni dei giornali, e che rappresentano un intreccio tra affarismo, la possibilità di gravi reati giudiziari su cui le procure aprono le indagini, e un fortissimo malessere di quello che un tempo si chiamava l'apparato territoriale del partito rispetto a Renzi e gli uomini di Renzi. Quindi, prima ancora di riepilogarvi di che cosa stiamo parlando, le mie tre domande per sapere come la pensate sono queste. È vero secondo voi, lo scrive oggi Antonio Polito sul Corriere della Sera, che il renzismo ha un grande problema, cioè si è fermato a Eboli, dice il commento di Antonio Polito, cioè tutto il sud non ha in realtà niente a che vedere con Matteo Renzi ed è un partito fatto di potentati propri, con logiche proprie, come Mafia Capitale a Roma, commissariata, come la vicenda del sindaco di Ischia sotto indagine, che è esplosa in questi due giorni insieme a una grande cooperativa rossa energetica che comprava tra l'altro anche i libri e il vino di D'Alema, come la vicenda di De Luca che ha vinto le primarie confermano, come notizia di oggi è confermato dalle dimissioni del PD, del presidente del PD siciliano che si è dimesso in tarda mattinata, si chiama Zambuto, e si è dimesso perché Repubblica aveva scritto, aveva documentato, Marco Zambuto, il presidente del PD siciliano, che era andato insieme a un deputato di Forza Italia siciliano, insieme a deputato Gallo Afflitto, a febbraio ad Arcole da Berlusconi, e lì si erano poste le basi per quella che poi è stata la vittoria ad Agrigento alle primarie del PD di Silvio Alessi, ex Forza Italia. Allora, tutte queste vicende testimoniano secondo voi che è inutile per certi versi darne colpa a Renzi, perché è l'apparato territoriale indipendente da Renzi e che casca a pezzi e rivela tutte le sue pecche? Prima domanda. Oppure, seconda domanda, il segretario è comunque Renzi, quindi è colpa anche di Renzi se si è fermato a Eboli e non riesce lì a modificare le cose, come si è visto nel caso di De Luca che vince le primarie, ma il candidato di Renzi, Gennaro Migliore, creato all'ultimo secondo, si è ritirato due giorni prima. Terza domanda, in realtà questo problema riguarda secondo voi il PD innanzitutto, oppure nel Mezzogiorno e non solo nel Mezzogiorno, come testimoniato da molte altre vicende, Expo, Mose e così via, in realtà pochi sono in grado nelle altre formazioni politiche, ho detto pochi, non tutti, ma pochi sono in grado tra le altre formazioni politiche di dar lezione e fare un problema politico sia al PD che a Renzi, perché in realtà è una situazione generale e trasversale. Vi dirò che io modestissimamente la penso molto così, purtroppo, perché non mi pare che la destra attuale possa da questo punto di vista davvero raccontare di essere un'eccezione, di non essere comitati d'affari, di non essere investita dalle indagini, eccetera, eccetera, eccetera. però questa è la mia opinione. Quindi tre domande. Primo, Renzi ha troppo da fare per occuparsi di tutto questo, soprattutto nel sud? Secondo, no, è colpa anche di Renzi, perché doveva occuparsi e dovrebbe occuparsene intervenendo durissimamente, come per esempio è accaduto a Roma con il commissariamento, e avete visto la relazione Barca consegnata a Matteo Orfini, il commissario, che cosa dice del PD di Roma, dei termini di una durezza senza pari. Oppure terzo, qui siamo in presenza di un problema generale, quindi anche la Seconda Repubblica che non riesce a morire bene come la prima. Ecco, queste tre questioni tra le tante. Dopodiché, se siete militanti, dirigenti o votanti, naturalmente metteteci anche la vostra barra delusione, barra passione, barra convinzione, telefonateci, perché sono molto curioso di sapere come la pensate. Intanto queste stesse tre domande però noi le rivolgiamo a due ospiti che sono due giornalisti, sono due direttori di giornale, e per parlare con noi di questo abbiamo innanzitutto il direttore del Mattino, Alessandro Barbano, che ringrazio. Buon pomeriggio, Alessandro. Buongiorno, Oscar. E il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Buongiorno, Claudio. Buongiorno, buongiorno a voi. Posso cominciare con te, Claudio? Certo. Allora, tendenzialmente la linea del Foglio, la tua, è quella di essere, diciamo, abbastanza spinti nella difesa dei meriti di Renzi. Antonio Polito, nel dire che Renzi si è fermato a Eboli, e lui lo dice criticamente, non per dispensarlo dalla responsabilità, secondo te ha ragione, e le colpe di Renzi quali sono? Oppure no, sono gli apparati preesistenti a Renzi che vanno a pezzi indipendentemente da lui? Ma secondo me in questo contesto Polito pecca d'ottimismo, perché magari Renzi fosse fermato ad Eboli, si è fermato a raccordo anulare, si è fermato a Grotta Ferrata, più o meno. Cioè, il renzismo inteso come produzione virtuosa di una nuova classe dirigente non esiste al sud, esiste al massimo fino a Roma, fino al raggio più o meno che ruota attorno a Palazzo Chigi. Perché è successo questo? È successo questo perché tutto comincia nel 2012, quando Renzi decide di fare, di scendere in campo, di fare le primarie, le perde, e Renzi scientificamente aveva deciso di non immischiarsi con la classe dirigente meridionale del centro-sud, perché era in qualche modo, non la conosceva, era diffidente, non si fidava dei capi bastone, quindi non ha voluto immischiarsi. E cosa è successo? Nel momento in cui il renzismo è diventato egemone, è diventato potente, anche dominante, Renzi si è ritrovato a fare un'operazione simile a quella che ha fatto la Lega quando è arrivata in Parlamento, cioè ha dovuto prendere quello che c'era, e di conseguenza ha, qui sì, Renzi sbagliato, ha accettato anche di prendersi una vecchia classe dirigente che gli ha permesso di avere dei voti rapidamente, ma quella classe dirigente non ha passato in qualche modo la prova della rottamazione, e quindi si spiega un po' così il cortocircuito. E questo secondo me possa allargare un po' anche la telecamera, l'inquadratura, è un fenomeno più grande, perché il renzismo, inteso come rottamazione anche virtuosa, è un fenomeno che riguarda il brand del PD nazionale. Se noi andiamo a guardare tutti i contesti locali, Renzi il PD non lo governa così bene, i suoi candidati non vincono le primarie, i suoi candidati non vincono le elezioni regionali, i suoi candidati spesso sono si candidano contro altri candidati del giro renziano, quindi c'è una gran confusione, e non a caso il Partito Democratico funziona bene come brand nazionale, ma a livello locale, pur vincendo, vince con vecchi volti, con persone che fanno parte di un'altra epoca geologica e che semplicemente cambiano maglia. Questo è il grande problema. Quindi ha ragione Polito quando dice che il renzismo si è fermato ad Eboli, ma io dico che è un problema che riguarda sia il passato del PD, ma anche il presente. Cioè Renzi deve mettere la testa sul fatto che il PD non è soltanto un'espressione geografica, ma è anche qualcosa che riguarda il territorio, e questo deve capire Renzi. Allora, la stessa domanda la faccio a Alessandro Barbano. Intanto inizio a leggere alcuni degli sms dei nostri ascoltatori. Stefano dice: non dimentichiamoci che Craxi fu condannato perché non poteva non sapere, un leader di partito, segretario nazionale, non può ignorare quello che avviene in pezzi territoriali così importanti del suo stesso partito, quindi non si può assolverlo. Naturalmente non stiamo parlando in termini giudiziari ma politici. Tony da Vicenza dice: no, loro non sono moralmente migliori, e questo conferma che una delle ragioni tanto ripetute nella politica italiana non ha un fondamento. Altri poi mi imputano di non avere ricordato i sospetti sul Dio magico, il papà della Boschi e così via, però quello è per il momento, diciamo così, un colore politico. Qui stiamo parlando di vicende che hanno invece una loro rilevanza o penale o per inchieste o cose di questo genere. Altri invece dicono c'è un problema, però comunque, perché la vicenda siciliana di Agrigento, la vicenda oggi del presidente del partito che si dimette, identifica un grave problema nel consentire a pieno titolo le ascese di dirigenziale o l'utilizzo del simbolo da parte di persone che ne fanno un uso personale non in linea con la linea politica nazionale di Renzi, e questo è un problema politico enorme nel PD, dicono altri ascoltatori. Allora, Alessandro Barbano, come la pensa? Ma io penso che quello che è accaduto al PD è lo specchio di due processi che riguardano un po' tutto il paese e tutta la politica, cioè la verticalizzazione e la mediatizzazione della politica. Paese che ha perso rapporto col suo corpo, cioè con le sue periferie, e quindi l'assenza di un'intermediazione dei partiti dentro quella che chiamiamo società civile, dentro quella che chiamiamo i processi di territorio, e quindi una perdita di contatto complessivo del centro rispetto alle periferie. Questo è un paese che si rappresenta ormai in chiave romana, ma Roma come metafora di una dimensione televisiva di una comunicazione, diciamo, centralizzata, dove la politica ha creduto, verticalizzando, di garantire decisionalità agli atti di governo e anche agli atti ovviamente di governo dei partiti. Purtroppo questo funziona ed è legittimo nella dialettica parlamentare, infatti il processo di verticalizzazione che Renzi ha messo in atto nel rapporto fra governo e Parlamento è probabilmente giusto e doveroso e sta dando qualche frutto. Funziona meno invece nella catena della dialettica politica, perché se i partiti scompaiono dai territori, dalle periferie, evidentemente questa perdita di contatto poi si registra drammaticamente quando si tratta di scegliere dei candidati e quando il centro scopre poi che invece il corpo esiste e ha delle sue logiche, delle sue dinamiche che hanno ovviamente seguito altri percorsi che non sono quelli dell'etica politica, ma quelli per esempio dell'affarismo, di interessi particolari che diventano evidentemente interessi preponderanti in periferia. Questo è quello che ha pagato Renzi, e non solo Renzi, perché riguarda allo stesso modo Berlusconi, riguarda un po' tutti i partiti. Ovviamente nei confronti del Mezzogiorno questa perdita di contatto è parallela poi a un vero e proprio divorzio che il Paese ha realizzato con il Mezzogiorno. Questo riguarda un processo lungo negli ultimi 20 anni che poi negli ultimi 3 governi è apparso più evidente. Dal governo Monti in poi il Mezzogiorno è diventato qualcosa di sconosciuto, di fastidioso o comunque un problema. Lo è stato per Monti, probabilmente è stato un tema sconosciuto al governo Monti. Per Letta è stata un'operazione di rimozione, il Mezzogiorno Letta lo ha rimosso. E Renzi ancora non ha preso le misure con questo Mezzogiorno, con un governo dove, come sappiamo, non esiste un solo rappresentante meridionale, che non vuol dire ovviamente che ci debbano essere 10 ministri meridionali, però non sarà un caso che questa, la classe dirigente del paese oggi non appartiene a questo territorio. Quindi questi due fattori insieme sono poi le condizioni che possono determinare situazioni come quelle campane, per esempio. Questo mi pare la lettura di ciò che è accaduto. Cerasa, posso fare una domanda a Cerasa? Aspetta un secondo, poi tanto c'è tempo e torniamo da te, Alessandro. La responsabilità delle minoranze, in particolare dei segretari precedenti, Bersani e così via, in questa cristallizzazione di potentati affaristici, perché nella vicenda campana, non solo quella del sindaco di Ischia, ma nella vicenda di ciò che c'era prima, a De Luca, che adesso rischia di essere eletto e di non poter svolgere il suo mandato, è evidente che si trattava di questo. Le vicende del PD calabresi sono note, quelle romane sono sotto inchiesta, ma in più ci sono avvenute anche vicende come quelle dell'indagine aperta sulla 'ndrangheta in Emilia, la vicenda del sindaco Orsoni a Venezia, la vicenda chiusa solo con la prescrizione per Penati e le cooperative a Sesto San Giovanni a Milano e così via. In tutto questo non è una responsabilità degli stati maggiori del PD degli ultimi anni avere consentito questa doppia frattura di cui parlava Barbano, secondo te, Cerasa? Ma è indubbio che in parte anche così, e questo è un riflesso, diciamo, che ha portato all'esplosione politica sia di Renzi che di Grillo, perché ricordiamoci che il fenomeno della rottamazione violenta, rottamazione soft che hanno portato insieme in qualche modo Renzi e Grillo negli ultimi anni, che è stata una specie di primavera araba della politica italiana, è frutto, diciamo, è uno specchio di quello che è successo magari anche dal punto di vista delle questioni giudiziarie, cioè laddove c'è una classe dirigente che è eccessivamente radicata nel tempo con evidentemente rapporti di qualsiasi tipo con il mondo che li circonda, è ovvio che può esserci più facilità nell'andare a finire in situazioni che poi possono diventare anche soggette a capi di imputazione, quindi questo è evidente. Bisogna anche dire però che per esempio Bersani non è vero che non ha rinnovato la classe dirigente, l'ha rinnovata anche la sua segreteria, se ricordate, era composta da molte persone che oggi sono arrivate ad avere ruoli importanti nel mondo renziano, non so, pensiamo anche allo stesso Orfini, è presidente del PD ed è un'espressione della sinistra renziana, ma era anche nella segreteria del Partito Democratico. Il problema secondo me è che nel passato, e questo forse è un rischio che anche Renzi deve evitare, il modo in cui si è scelto di cambiare classe dirigente a livello nazionale e a livello locale è stato la famosa continuità, anzi discontinuità nella continuità, cioè si sono cambiati soltanto i volti, poi in realtà quello che c'era dietro era un insieme di potere, se vogliamo, che rispondeva a vecchi interessi, quindi secondo me un po' questo è il punto. Certo, bisogna anche dire che la rottamazione non è che deve essere intesa come una sorta di giacobinismo politico, bisogna farla con razionalità e cercando appunto di capire se le persone che stanno da molto tempo in un posto meritano di rimanere là oppure no, cioè non è che se una persona sta lì da 20 anni deve essere per forza chiaro. Io ho un'impressione, ve la consegno perché adesso andiamo poi in 60 secondi di pausa, informazione stradale. Anche in vicende particolarmente gravi ed esplosive dal punto di vista sistemico, italiano, paese, voglio dire, MPS, io ho l'impressione che in questi anni, grazie ad alcune cinture di tutela, il vero conto al PD, MPS era la quarta banca italiana, di quello che è accaduto grazie al fatto che era il PD a decidere tutto e a far finta di non vedere tutto, non è stato presentato dalle istituzioni italiane, non è stato presentato, cioè abbiamo ancora salvato non la banca che adesso dovrà essere acquisita dopo 3 aumenti di capitale che non sono bastati, ma la fondazione. E questo è avvenuto con tutte le classi dirigenti italiane, destra, imprenditori eccetera, che hanno cooperato a questo. Allora, secondo me non presentare mai il conto da quella parte consente di credere che tutta questa rete locale affaristica sia un problema meno grave di quanto non sia per altri ai quali il conto viene duramente presentato. Lascio da parte il Movimento 5 Stelle che è immune da questo perché è immune da questo, nasce per reazione a questo. Il problema poi è la capacità politica di incidere dei 5 Stelle che, ohimè, è ancora alla ricerca di un suo punto di caduta. Però c'è questo problema in Italia, perché se ogni volta diventano scandali locali, cose che non coinvolgono la responsabilità nazionale, nemmeno quando si tratta della quarta banca italiana, è ovvio che l'illusione dei leader che si succedono è quella di dire ma insomma intanto pensiamo a fare vincere nella fiducia ai governi, come se queste vicende non minassero dal fondamento la fiducia italiana. La prima repubblica è morta per questo, nella seconda noi siamo al record di stima bassa di fiducia, al 30% nel nostro paese rispetto al 60% di Svezia, per queste vicende qua adonta poi del fatto che si possono fare le riforme e che ci sia la ripresa economica, però c'è un problema di fondo e di conti presentati, ecco, questo voglio dirlo con una certa brutalità. Strade, e torniamo su questa domanda. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:49, prima 40 secondi. Stiamo parlando delle tante vicende che investono il PD territorialmente, di malaffare, di indagini, giudicheranno i giudici, ma insomma il colpo politico c'è, gravissimo, ogni giorno novità, oggi le dimissioni del PD, del presidente del PD siciliano, che andava da Berlusconi con i deputati di Forza Italia per, diciamo così, preparare la strada, che ha vinto le primarie ad Agrigento, che veniva da Forza Italia, esattamente poi come il sindaco di Ischia, trionfalmente eletto col 70% e oggi arrestato, era stato un sindaco del centrodestra anche lui prima, quindi pieno trasversalismo degli interessi e degli affari. Abbiamo con noi due direttori di giornali, le domande sono: colpa di Renzi o di chi l'ha preceduto, stanno tutti con gli stessi guai o quasi, cosa pensare? Iniziamo con alcune telefonate e poi torniamo alle risposte che vi daranno i nostri due ospiti. Cominciamo con Giancarlo che si chiama da Roma, prego Giancarlo. Sì, buongiorno, parto subito con un esempio. Ho vissuto in Germania, per chiamare l'idraulico dovevo mandare tramite la banca il pagamento della fattura. Cominciamo così. Se non lo avessi fatto avrei subito un controllo fiscale. Cominciamo ad andare avanti così. E cioè cominciamo così. No, l'esempio è chiaro cosa vuol dire, cioè un capovolgimento generale, ecco, della trasparenza e delle come si assolvono gli obblighi. Questo perché è un continuo, ci costa più di giustizia, di cause, di controcause, di indagini che di sistema. Basterebbe modificare leggermente il sistema. Benissimo. È tutto. Andrea da Firenze, prego Andrea. Sì, buon pomeriggio, salve. Buon pomeriggio. Allora, io sono alle ultime amministrative. Ho votato un'altra, non il PD, ma un altro simbolo, una freccia bianca. Ma diciamo poi all'europeo ho votato diciamo il PD. Renzi, secondo me, per lui il Sud è tra virgolette un problema perché non lo conosce e non conosce gli apparati che ci sono intorno e soprattutto lui non si fida perché lui va molto a pelle, vuole avere a casa sé le persone di fiducia e il Sud, a parte forse la Puglia, non li conosce affatto. E se non ha fiducia non va avanti in certe cose, sbagliando logicamente. I politici che ci sono al sud purtroppo ci possono essere delle collisioni, perché logicamente governano quelle zone, quelle regioni. Se quando in un futuro anche il Movimento 5 Stelle governerà magari quelle regioni o quelle città, anche loro purtroppo avranno, secondo me, avranno, vedremo, delle commissioni. Non si può dire avranno, se le avranno lo vedremo, però non possiamo dirlo con certezza. Voglio dire, il sistema delle cooperative rosse ha commissioni improprie dovunque in Italia, è inutile che ci giriamo intorno, e per quanto la leadership attuale da un po' di mesi volesse prendere la faccenda in mano, sono concrezioni di potere molto troppo forti con come funzionano gli appalti nel nostro paese e i lavori, con le norme che vengono scritte perché questa o quel gruppo di interesse e di pressione privato, sia in forma cooperativa o di imprese di SRL con tanto di proprietarie, premono e si comprano le modifiche e i regimi discrezionali. Questa io almeno la vedo così, può essere che sbaglio. Sentiamo ancora Dario da Ferrara. Dario, prego. Beh, io volevo intervenire proprio sul discorso delle cooperative. Io chiamo dall'Emilia Romagna, da Ferrara. Quello che stiamo vedendo, specialmente dall'inizio dell'anno del 2015, sono fior fior di fallimenti all'interno del settore cooperativo, specialmente costruzioni. Stanno saltando cooperative di centinaia di anni, facendo un deserto dietro di loro, perché inevitabilmente hanno tenuto abbastanza botta con le banche, ma hanno scaricato debiti su debiti con i fornitori, quindi hanno usato spesso e volentieri i fornitori per Come ammortizzatore. Però Dario, un conto è il problema che riguarda le costruzioni, che è il settore che ha perso più valore aggiunto sul PIL in questi anni di crisi, quasi 50%. Altro conto e poi è per andare avanti a giudicarsi lavori spiazzando imprese che non hanno i collegamenti politici e non si fanno modificare i bandi e i limiti per l'accesso alle risorse, come sembra avvenuto anche nella vicenda di questa CPL, cooperativa energetica molto forte del sistema Coop, per portare il metano a Ischia. Sono due cose naturalmente diverse. Nel frattempo vi do un'informazione, perché il premier dell'Iraq ha annunciato alla televisione irachena la liberazione di Tikrit dall'ISIS. Poi sentirete nei giornali radio se questa notizia è confermata, che ISIS ha perso il controllo di Tikrit con le forze ufficiali irachene che col sostegno della coalizione aerea avrebbero ripreso il controllo di Tikrit. Tikrit, ricordate, è la città di provenienza del clan di Saddam Hussein, quindi ha un'importanza anche simbolica in Iraq. Ma chiediamo adesso a Alessandro Barbano cosa pensa un po' delle osservazioni che ha sentito da parte mia dei nostri ascoltatori. Ma vedi, la verità l'hai detta tu e l'hanno detto i nostri ascoltatori. Il nostro è un sistema corporativo, non solo un sistema corporativo, ma è un sistema che di fronte alla crisi e alla globalizzazione, due fattori paralleli, tende a difendersi corporativizzandosi ancora di più. Questo è quello che sta accadendo e è accaduto in questi anni. Questo riguarda un po' tutti i settori della vita pubblica, dalla burocrazia alla politica, alla classe dirigente. I cancelli della classe dirigente e della politica sono chiusi. E chi stava prima dentro è rimasto, soprattutto sono rimasti i peggiori. Però Renzi con la rottamazione, un ministro donna su due, eccetera, sembrava proprio a sfondare la porta, o no? Ma Renzi ha sfondato la porta in chiave destruente. Ma la costruzione è tutta da fare, tant'è vero che abbiamo visto qual è la qualità della classe dirigente, di parte della classe dirigente che ha rimesso al governo del paese, anche nel governo. Allora, aspetta che su questo qualità. Sentiamo allora, il difetto. Completare questo ragionamento, se me lo consenti. E quindi il vero problema, che è un problema della politica e non solo, è quello di selezionare il merito, cioè fare in modo che i migliori entrino. Quella che si chiama società civile, ma la parola non vuol dire niente. I migliori, diciamola con franchezza, sì, oggi i migliori stanno fuori dalla politica, stanno fuori cosa dalle che la buona scuola fuori dalle dice banche, a parole fuori, ma non fa, per esempio. E allora qui ci sono tre strumenti attraverso cui un paese seleziona i migliori, e sono la legge elettorale, la scuola e il credito. Ora lasciamo perdere i secondi due. Con riferimento alla politica, quella legge elettorale che avevamo, diciamo, la vecchia legge elettorale proporzionale era una legge che rappresentava la società per com'era, con il rischio che alcune concrezioni di potere non proprio trasparente potessero imporsi. E il sistema però della cooptazione che abbiamo sostituito, che abbiamo imposto, purtroppo non ha risolto il problema, perché meno che mai le primarie, perché le primarie hanno un senso quando esiste una vitalità dei partiti nel corpo del paese e quindi un'intermediazione con la società civile, quando invece però i partiti sono strutture verticali e centralistiche che non hanno rapporto con i territori. Insomma, hai fatto niente. La fotografia di un bel disastro. Torneremo sulla domanda se a questo punto le minoranze del PD presentano a Renzi il conto anche su questo, sulla legge elettorale. Ma non lo so. Comunque, intanto continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.